Serpion Onda, anche il saggio a dita ai giovani, rubate sempre anche voi. Che lui lavora gli altri no, non fate niente anche voi. No, no. Non fate niente anche voi. Comprate gli altri anche voi.